go. Dime lo quiero, sei un radio, o stessa è solo Rosei e te fai tappa per fraula e do o canta. Mi c'è un zainul come un collo, ciao. Narau, ne ventau.